Capitolo 3. La brughiera. A un certo punto il treno si fermò a una stazione. Mary si svegliò e vide Mrs. Medlock che comprava un cestino da viaggio. Sul marciapiede della stazione c'erano delle persone vestite con impermeabili lucidi per la pioggia che continuava a cadere sempre più fitta. Un ferroviere accese le luci nei vagoni e Mrs. Medlock aprì il suo cestino e offrì a Mary del pollo arrosto, del roast beef, del pane burro e del tè caldo. La bambina la osservò mentre mangiava. Era una donna golosa, si vedeva da come mangiava. Gustava il cibo boccone per boccone, innaffiandolo con bicchieroni di tè che ingoiava socchiudendo un po' gli occhi. Quando ebbe finito, si scosse con una mano le briciole che erano rimaste fra le perline del suo soprabito, si aggiustò il cappellino sulla testa e piano piano si addormentò. Appoggiando la testa alla spalliera, però, mosse il cappellino che andò scivolando lentamente ad appoggiarsi tutto su una guancia. Ma lei non se ne accorse, perché dormiva proprio sodo, la bocca semiaperta e i fiorellini viola che danzavano a ogni movimento del treno. Mary continuò a osservarla per un pezzetto, poi il ticchettio della pioggia sui vetri, il rumore delle ruote sulle rotaie, il respiro regolare della donna che dormiva, il calduccio dello scompartimento la avvolsero in un senso di benessere che la fece addormentare. A un tratto si sentì scuotere per un braccio, aprì gli occhi con un sussulto, vide che fuori dal finestrino era già buio buio. Mrs. Medlock era in agitazione. Sveglia, sveglia, basta dormire. Su, su, siamo arrivati a Thwaite, dobbiamo scendere. Su, su, c'è ancora un bel pezzo prima di arrivare a casa. Su, dobbiamo prendere la carrozza ora. Scendere, scendere. Mary si alzò, barcollando. Riusciva a fatica a tenere gli occhi aperti, mentre Mrs. Medlock raccoglieva i bagagli e faticava a reggere borse, borsette e valigie. La bimba non si offrì di aiutarla, perché in India sono i servi che si occupano di queste cose e quindi le sembrava assolutamente giusto che la donna si arrangiasse da sola. La stazione era piccola e le due viaggiatrici furono le uniche persone a scendere dal treno. Il capostazione salutò Mrs. Medlock e le rivolse la parola parlando uno strano inglese che Mary scoprì in seguito essere la parlata dello Yorkshire. E così è tornata, signora? E ha portato la bambina con sé? Ah, sì, eccola qui, rispose Mrs. Medlock, parlando anche lei con quello strano accento che smozzicava le parole e allargava il suono delle vocali. Si teneva dietro le spalle di Mary e, alzando il mento in direzione della ragazza, chiese a suo amico: che gliene pare? Vabbè, insomma, la carrozza vi sta aspettando, rispose lui. Una carrozza chiusa era infatti ad attenderle sul piccolo piazzale davanti alla stazione. Mary notò che era una bella carrozza, elegante. Un uomo alto e robusto, ben vestito e gentile, aprì lo sportello e le porse la mano per aiutarla a salire. Vestiva un impermeabile scuro e aveva un cappello pure impermeabile con una grande ala che gli scendeva sulle spalle. Gocciolava da tutte le parti, come gocciolavano la carrozza, i lampioni, la tettoia della stazione. Il capostazione. Quando Mary fu salita e Mrs. Medlock si fu accomodata dall'altra parte del sedile, il cameriere chiuse con cura lo sportello, salì a cassetta vicino al cocchiere e i cavalli cominciarono a trottare. L'interno della carrozza era assai confortevole. I sedili erano imbottiti di un bel panno blu, c'erano dei cuscini morbidi e degli scialli soffici soffici. Si stava bene, ci si sentiva all'asciutto, lontani da quella umida pioggia. A Mary il sonno era improvvisamente passato, si accomodò ben bene nel suo angolo e accostò il viso al finestrino. Era curiosa di vedere almeno qualcosa della strada che la stava conducendo a quello strano posto di cui Mrs. Medlock le aveva parlato. Mary non era una bambina timida, anzi era piuttosto intraprendente e coraggiosa, ma la storia di quelle stanze chiuse a chiave, di quel castello costruito tanto tempo fa in mezzo alla brughiera, l'aveva lasciata un po' perplessa. Che cos'è la brughiera? Chiese improvvisamente a Mrs. Medlock. Se guardi fuori dal finestino, fra una decina di minuti lo vedrai con i tuoi occhi cos'è. Dobbiamo fare 5 miglia attraverso la brughiera di Meissel prima di arrivare al castello. Hai voglia a vedere cos'è? Beh, tanto tanto non vedrai perché è buio, però Basterà quel che vedi a fartene un'idea. Mary non chiese più niente, ma attese nell'oscurità del suo cantuccio, tenendo gli occhi fissi al finestrino. I fanali della carrozza spandevano una luce fioca e opaca che solo a tratti riusciva a illuminare qualche pezzetto di cammino. Dopo aver lasciato la stazioncina, il viaggio proseguì attraverso un piccolo paese con casette bianche, strade deserte, qualche lampione a illuminare l'entrata dei bar o delle osterie. Poi Mary vide una chiesa con annessa la casa del pastore e poi, accanto al portoncino di una casa, una piccola vetrina illuminata, forse un negozio con giocattoli, dolci e qualche altro oggetto in vendita. Erano quindi passati sulla strada provinciale e Mary aveva visto siepi e alberi, per un tempo che a lei era sembrato molto più lungo dei 10 minuti previsti. Ma ad un certo punto i cavalli cominciarono ad andare più adagio, non più al trotto, come se stessero affrontando una salita e non c'erano più né siepi né alberi. Mary non vedeva altro che un gran buio fuori dal finestrino, buio e basta. Schiacciò il naso contro il vetro, ma questo non migliorò le cose, anzi le fece sbattere la fronte quando la carrozza ebbe un improvviso sussulto. Accidenti, fece Mrs. Medlock sobbalzando. Eccoci, eccoci nella brughiera. I fanali illuminavano con la loro debole luce giallastra un terreno scosceso e sassoso, dove non c'era una strada vera e propria, ma una specie di sentiero in mezzo a cespugli e ciuffi d'erba. Tutto intorno era buio, profondo. Si era levato anche il vento e si poteva udire il suo ululare sordo che finiva in una specie di lamento quando attraversava i rami più bassi dei cespugli. Ma questo non è il mare? Chiese Mary guardando fissa negli occhi la sua compagna. Ma che mare, ma che mare? C'è solo terra, terra. Ma non ci sono campi o prati, non ci sono colline o pianure, ci sono solo miglia e miglia di terra selvaggia, dove non cresce niente se non l'erica, la ginestra e la saggina, dove non vive nessuno se non qualche cavallino o pecora selvatica. Eppure a me sembra proprio di sentire il rumore che fa l'onda del mare quando viene a riva, insiste Mary. Senta, senta adesso, questo non è il rumore del mare? Questo è il vento che soffia nei cespugli, replicò Mrs. Medlock. La brughiera è un luogo desolato, tetro, anche se certa gente riesce a trovarlo bello e ad entusiasmarsi quando fiorisce l'erica. Io non sono fra quelli, però. No, no, di certo. La carrozza continuava il suo viaggio nell'oscurità. Non pioveva più adesso, ma il vento, che aveva cacciato le nubi, la faceva da padrone e fischiava e ululava tra le piante con gemiti che mettevano paura. La strada saliva e scendeva e spesso la carrozza si trovò ad attraversare dei ponticelli sotto i quali l'acqua di qualche torrente scrosciava con impeto rumoroso. Mary si chiedeva quanto sarebbe durato ancora quel viaggio incubo, la brughiera. Ma quello era un oceano sterminato, fatto di tenebre. C'era solo una striscia di terra sulla quale passava la carrozza, ma per il resto era un mare di inchiostro, pieno di strani rumori, sconosciuti, incomprensibili. Non mi piace, non mi piace proprio, ripeté Mary a se stessa e strinse le pallide labbra sottili che tremavano un poco, per farle stare ferme. Ma ecco che a un tratto i cavalli cominciarono a salire un pendio più ripido. E agli occhi della bimba riapparvero nel buio forme di alberi e come il brillare di due piccole luci in mezzo a tutta quella oscurità. Le vide anche Mrs. Medlock e tirò un sospirone. Ah, oh, come sono contenta di vedere quelle luci! Esclamò. Sono quelle della portineria e mi dicono che potrò avere una bella tazza di tè fra poco. Aveva ragione a dire fra poco. Oltrepassato il cancello del parco c'erano ancora soltanto 2 miglia da percorrere sul viale che portava al castello. Gli alberi che fiancheggiavano la strada erano molto alti e le loro cime quasi si toccavano, formando una specie di galleria attraversata la quale i viaggiatori giunsero a un largo spiazzo. Nel mezzo si ergeva una costruzione massiccia, immensa, anche se piuttosto bassa, squadrata attorno a un cortile da selciato di pietra. Mary si chiese come mai le finestre non fossero tutte illuminate. Poi, una volta scesa di carrozza, vide che erano proprio tutte buie e solo da un balcone d'angolo al primo piano filtrava un sottile raggio di luce. Il portone d'ingresso era fatto di pesanti pannelli di noce tempestati da grossi chiodi e incorniciati da grandi sbarre di ferro battuto. Era aperto per metà e immetteva in un enorme ingresso illuminato così fiocamente da permettere appena di non inciampare sulla soglia. C'erano dei ritratti a olio alle pareti e anche dei mobili e delle armature tutto intorno a quella enorme stanza, ma a Mary non venne certo voglia di soffermarsi a guardarli. In quella sgradevole semioscurità che allungava paurosamente le ombre delle persone e delle cose. Lì, in quell'atrio semibuio ed enorme, la bambina sembrava proprio fuori posto, una figurina nera, come ritagliata nel cartone e abbandonata lì da qualcuno. E così si sentiva Mary dentro di sé, a disagio, piccola e indifesa, incapace di affrontare una realtà più grande di lei. Accanto al cameriere che teneva la porta aperta c'era un altro personaggio, anziano, magro, alto, molto distinto. Accompagnatela subito nelle sue stanze, disse rivolgendosi a Mrs. Medlock in un tono educato ma gelido. Non vuole vederla, non vuole essere disturbato. Domani mattina parte per Londra. Bene, Mr. Pitcher, rispose Mrs. Medlock, farò quello che mi viene ordinato. Quello che le viene ordinato è di fare in modo che lui non sia disturbato per nessuna ragione, che non sia costretto a vedere cose che non vuol vedere. È tutto. Così Mary venne accompagnata su per una scalinata, poi per un lunghissimo corridoio, poi su per alcuni gradini e poi ancora per un lungo corridoio, poi per un altro finché si giunse ad una porta aperta. E si entrò in una stanza con un caminetto acceso e una piccola tavola apparecchiata per la cena di una persona. «Eccoti arrivata», disse Mrs. Medlock senza troppe cerimonie. «Questa e l'altra qui accanto sono le tue stanze. Lì è il bagno. Devi restare qui dentro, che non ti venga in mente di oltrepassare quella porta. Ricordatelo». Capitolo quarto. Marta. La mattina seguente Mary fu svegliata da un fastidioso rumore. Proprio lì, nella sua stanza da letto, una ragazza robusta, inginocchiata davanti al caminetto, stava raccogliendo la cenere del giorno prima, senza preoccuparsi dell'ospite che dormiva nel letto. Raschiò ben bene con una paletta di metallo i mattoni del focolare e passò poi una dura spazzola sul tappeto. Mary rimase distesa, immobile, ad osservarla per qualche minuto, poi cominciò a guardarsi attorno. Ma che razza di camera era quella? Non aveva mai visto né immaginato qualcosa di simile. Le pareti erano interamente coperte da arazzi riproducenti scene di caccia. C'erano grandi alberi, gentiluomini e dame con vestiti che Mary giudicò fantastici, cani e cavalli, e sullo sfondo c'era un castello con le sue torri e i suoi stendardi. A Mary parve di trovarsi dentro al bosco con quelle persone. Attraverso una finestra incassata nel muro si vedeva un terreno ripido e selvaggio, senza alberi, che sembrava uno sconfinato mare color rosa lilla. No, ma quella è una finestra, non fa parte della tappezzeria, pensò Mary, e puntando un dito verso il mare violetto, chiese alla ragazza, che continuava imperterrita al suo lavoro: Cos'è quello? Marta volse la testa verso di lei, si alzò, si avvicinò alla finestra. Questo? Sì. Ma è la brughiera, disse con un sorriso che le illuminò tutto il volto. Bella, vero? Ti piace? Proprio per niente, replicò Mary. Oh, dici così perché non ci sei abituata, continuò la ragazza ritornando verso il caminetto. Ti sembra troppo grande, troppo, ma vedrai che ti piacerà. A te piace? Chiese Mary. Altro che se mi piace, rispose Marta, strofinando con forza la grata del camino. Non potrei vivere senza di lei. Non è troppo grande, troppo desolata come può sembrare a prima vista, è piena di vita invece, e che buon profumo hanno le sue erbe. In primavera, quando l'erica, la ginestra, la mortella sono in fiore, è proprio una meraviglia, vedrai. Il vento porta il profumo dei fiori, c'è un odore dolcissimo nell'aria. Le api raccolgono tanto di quel nettare, sentirai che concerti fanno le allodole con i loro trilli, accompagnati dal brusio di tutti gli insetti. Mary ascoltava parlare meravigliata. In India le persone di servizio erano così diverse. Erano ossequienti e servili, e non si sarebbero mai permesse di parlare a tu per tu con i padroni, come faceva invece questa ragazza. Si rivolgevano ad essi chiamandoli protettori dei poveri e roba simile, non li contraddicevano mai. I padroni non dicevano mai per favore o grazie ai loro servi, comandavano e basta. Mary, per quanto fosse una bambina, dava ordini e si sfogava prendendo a pugni e calci la sua yacht quando era arrabbiata. Chissà come reagirebbe questa qui se le tirassi uno schiaffo, pensò. Marta continuava il suo lavoro. Era tornata a inginocchiarsi sul tappeto e raccoglieva la polvere deponendola con la spazzola in un contenitore di metallo, senza dare alcun peso alla bambina che rimaneva sdraiata sul letto. Oh, sarebbe anche capace di restituirmelo, concluse Mary dopo aver osservato attentamente il viso tranquillo e l'espressione per niente servile della ragazza. Come cameriera sei abbastanza strana, commentò ad alta voce. Eh sì, lo so, ribatté Marta, sorridendo con aria complice. Se fosse ancora viva la signora non sarei certo qui, neppure per lavare i pavimenti. Al massimo potrei essere nelle cucine come sguatra, ma non certo qui. Sono troppo poco fine per stare vicino ai signori. E poi parlo dialetto, ma per fortuna in questa casa non c'è né padrone né padrona. Solo Mrs. Medlock e Mr. Pitcher. Lui, il vero padrone, Mr. Craven, non vuole essere disturbato. Le rare volte che è qui. Lascia tutto in mano a loro. Ma qui non c'è quasi mai. Mrs. Medlock mi ha dato questo posto solo perché sa che ho bisogno di lavorare. Siamo molto poveri. Ma se ci fosse stata la signora... Ti hanno assunta perché tu sia al mio servizio? Chiese Mary, continuando a parlare con quella sua arietta da principessa indiana. E io sono a servizio di Mrs. Medlock, come lei è al servizio di Mr. Craven, rispose Marta, sempre sorridendo. Ma visto che sono qui al primo piano a fare le pulizie... Se hai bisogno di qualcosa posso aiutarti. Ma non vedo di cosa potresti aver bisogno. Rimetterò io in ordine la stanza e ti porterò io da mangiare. E lavarmi? Vestirmi? Pettinarmi? Chi si occuperà di questo? Marta smise di spazzolare il tappeto davanti al caminetto e si sedette sui talloni, guardando Mary con gli occhi spalancati. Così grande non sai ancora farlo da sola? Chiese in dialetto. «Parla per bene, non ti capisco», la rimproverò Mary che cominciava ad arrabbiarsi. «Voglio dire, non sai ancora lavarti, vestirti e pettinarti da sola?» «Non l'ho mai fatto», rispose Mary guardandola con aria molto sdegnata. «C'era la mia ayah per questo. In India si usa così». «Beh», replicò Marta, senza neppure l'ombra di voler essere antipatico o arrogante. «E ora che tu cominci, avresti già dovuto farlo da un pezzo». Sei già abbastanza grandina per poter pensare a te stessa. Mia madre dice sempre che non capisce come i figli dei signori non diventino tutti cretini, con tutte quelle persone intorno che fanno le cose per loro, che li lavano, li vestono, li accompagnano a scuola, magari portandogli la cartella. Quelli non sono bambini, sono pupazzi. A me piace come si usa in India, sentenziò Mary. Oh, capisco che là deve essere differente, concordò Marta, che voleva essere gentile. Ma sai... «È tutto differente là, vero? Ci sono i neri là, no? Quando ho saputo che tu venivi dall'India, pensavo che anche tu fossi nera». «Cosa? Che cosa hai detto? Come ti permetti, tu figlia di sporchi maiali?» Mary si era alzata a sedere sul letto, furibonda, e tirava pugni sul cuscino. «Io nera? Come ti permetti?» «Come ti permetti tu?» replicò Marta, fissandola negli occhi. Non hai il diritto di offendermi. E poi che razza di parole usi? Nessuna ragazza ben educata si esprimerebbe così. E poi cosa ti ho detto? Che credevo tu fossi nera? Beh, è un'offesa? Io non capisco. Per me i neri sono come fratelli. Non ne ho mai visto uno ed ero contenta al pensiero che tu fossi nera. Stamattina, quando sono entrata qui per pulire il caminetto e preparare per il fuoco di oggi, sono entrata in punta di piedi. Sono venuta vicino al tuo letto sperando di trovarci dentro una bella negretta, e invece c'eri tu, bianca come me. Mary non riuscì più a controllare la sua rabbia. Era troppo. Tu hai pensato che fossi un'indiana. Tu hai pensato che fossi un'indigena. Non sai niente dell'India. Tu dici nero invece di indiano. Ma tu non sai niente degli indigeni. Non sai che le persone di colore sono serve dei bianchi? Serve. Tu non sai niente, niente, un accidente di niente. Marta la guardava disorientata E Mary si sentì improvvisamente così fuori posto in quel luogo dove nessuno la capiva, dove le cose alle quali lei era abituata non avevano alcun senso, che non riuscendo più a dire altro, si buttò con il viso sui cuscini, piangendo disperatamente. Singhiozzava così forte che Marta ne ebbe pena. Anche non riuscendo a capire fino in fondo il perché di quel pianto e di quella rabbia, la ragazza, che era buona come il pane, semplice e sensibile come lo è la gente dello Yorkshire, sentì una vera ondata di simpatia e di affetto verso quella bambina piangente. Si alzò in piedi, si avvicinò al letto. No, no, non piangere così, ti prego, non volevo offenderti, non volevo. Hai ragione tu, io non so niente di niente, ma tu non piangere così, ti prego, ti prego. C'erano tanto dispiacere sincero e tanto desiderio di dimostrare amicizia nelle parole che Marta ripeteva, rendendole ancora più affettuose con quel suo accento dialettale, che Mary sentì un senso di conforto nella sua disperata solitudine. A poco si calmò. I singhiozzi si fecero più radi, le lacrime smisero di scorrere. Su, alzati adesso, disse Marta quando la vide più calma. Mrs. Medlock mi ha detto di prepararti la colazione nella stanza comunicante con questa. È là che mangerai sempre, pranzo, colazione e cena. Io ho già preparato il tè, vedrai. Te l'hanno preparata apposta per te quella stanza. Ci starai bene, ci giocherai. Bene, se esci dal letto ti do una mano a lavarti e a vestirti. Forse i tuoi vestiti sono abbottonati sulla schiena e allora per forza hai bisogno di qualcuno che ti aiuti. La prese per mano, la portò nel bagno, le lavò il viso e le mani con acqua fresca e tornando in camera, Marta si avviò verso un armadio e prese della biancheria pulita da una gruccia con attaccato un bel vestitino bianco. Questa non è roba mia, osservò Mary, il mio vestito è nero. Mise tuttavia una mano sull'abito che Marta reggeva e provò una sensazione piacevole perché era di una bellissima lana, morbida e calda. Com'è soffice, osservò, ed è anche molto più bello del mio. Te lo ha fatto comprare a Londra, Mr. Craven, spiegò la ragazza. Non sopportava l'idea di vedere una bambina vestita di nero girare per casa. Mia madre dice che lo capisce. Lei capisce sempre cosa pensano, cosa sentono le persone. Anche lei pensa che non è bello vestire di nero una bambina. Io non lo posso vedere il nero, affermò Mary, e si mise dritta e ferma ad aspettare che Marta la vestisse. Marta aveva sorelline e fratellini più piccoli, era stata abituata a spogliarli e vestirli, ma non aveva mai visto nessuno starsene così calmo e immobile, aspettando che un altro facesse le cose per lui, come se non avesse né mani né piedi. Beh, ora le calze e le scarpe puoi proprio mettertele da te, eh? Sbottò quando Mary, ormai vestita, si sedette sul letto e le porse un piede da calzare. Di solito me le metteva la mia ayah. In India si usa così. Aveva imparato dai servi di colore con i quali era vissuta a dire si usa così o non si usa così. Per loro queste frasi mettevano fine ad ogni discussione. Per nessun motivo uno di loro avrebbe fatto una cosa che non si usava, cioè che non era già stata fatta durante centinaia e centinaia di anni dai suoi antenati. Ma Marta non si scompose. Si avvicinò a Mary, che se ne stava sempre con un piede alzato verso di lei, le mise in mano i calzini. E lei indicò le scarpe che stavano vicino al letto. Coraggio, disse, anche la più piccola delle mie sorelline è capace di farlo da sola.